Unione Europea. Il divieto di indossare il simbolo religioso della croce viola la Convenzione dei diritti umani. Radio Vaticana, 15 gennaio 2013. Era attesa in Gran Bretagna e dopo circa 7 anni è arrivata. Si tratta della sentenza della Corte di Strasburgo che ha dato ragione ad una dipendente della British Airways a cui l'azienda aveva vietato di portare una croce al collo, perché in contrasto con la filosofia della compagnia impostata ad una assoluta neutralità. Secondo i giudici è stato violato l'articolo 9 della Convenzione europea, ovvero il diritto di libertà di pensiero, coscienza e religione. Secondo Monica Lugato, professore ordinario di diritto internazionale alla LUMSA, la decisione della Corte sembra senz'altro condivisibile, perché la croce che la signora riteneva di avere il diritto di portare era in realtà una croce molto discreta e quindi non poteva obiettivamente creare un problema. Inoltre la stessa British Airways avrebbe modificato poi le sue regole sull'uniforme, ammettendo che i dipendenti potessero indossare simboli religiosi. Era quindi in qualche modo tornata indietro, dimostrando che si era trattato di una restrizione non proporzionata al diritto di manifestare la propria religione. Secondo la professoressa Lugato, la considerazione che ha indotto la Corte europea ad ammettere la violazione dell'articolo 9 è contenuta nello stesso articolo, al paragrafo 2, dove si dice che il diritto a manifestare le proprie convinzioni religiose può essere limitato, ma quando si tratta di un modo necessario per tutelare un altro interesse pubblico. Qui il problema era l'esigenza della British Airways di trasmettere una certa immagine della compagnia. La Corte ha soppesato i due interessi e ha affermato che non si può considerare che un interesse di questo tipo, quello a definire un'immagine della compagnia aerea, sia motivo legittimo per restringere un diritto fondamentale che è il diritto della persona di manifestare la propria religione. Diverso dal caso oggetto della sentenza in questione è quello del velo islamico, in cui la Corte ha invece considerato compatibili con la Convenzione europea le restrizioni, in quanto si tratta di circostanze locali del tutto speciali che hanno giustificato le sentenze nelle quali si è ammessa la restrizione all'uso di simboli religiosi. Sempre secondo la professoressa Lugato, il messaggio che viene dalla sentenza, in cui viene sanzionato il divieto di indossare il simbolo religioso della croce, è che c'è una grande attenzione al diritto alla libertà religiosa. In realtà c'è consapevolezza che questo diritto fa parte dell'identità della persona e che quindi le restrizioni debbano essere valutate tenendo pienamente conto del carattere fondamentale di questo diritto identitario, relativo cioè all'identità socio-culturale del soggetto.